Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Io oramai sono un viaggiatore stanziale. Il mio luogo di residenza stabile è il sedile di un treno. E tra le tante persone che mi capita di incontrare, ogni tanto incontro invece dei viaggiatori saltuari, perlomeno per quanto riguarda il treno. Come la giovane donna, bella, ben vestita, favolosamente vestita, truccata, ingioiellata, perché è una grande viaggiatrice, abituata a voli transoceanici, che soltanto per un piccolo tratto tra l'aeroporto e la capitale ha l'occasione di incrociarmi in treno e di raccontarmi il suo grande viaggiare. Tu vivi a metà tra gli Stati Uniti e Dubai? Io vivo esattamente a metà. Sono diventata americana il 13 di settembre. È stato difficile? È stato molto complicato, perché diventare residenti è complicato, ma diventare americani lo è ancora di più. Del resto per me era un sogno diventarlo e quindi ho fatto tutto il possibile per poter realizzare il mio sogno. Materialmente che bisogna fare per diventare americani? Materialmente bisogna prima ottenere... Potrei sposare un americano? Beh, quello sarebbe la versione più semplice, anche se comunque devono poi passare 3 anni e poi arrivano a fare delle interviste molto personali, addirittura sulle conoscenze molto intime tra uno e l'altro per capire se effettivamente sono innamorati oppure è stato un escamotage. Cioè ti chiedono quanto ce l'ha lungo per capire se è vero che... Addirittura fanno così, però non è stato il mio caso perché io non ho sposato un americano. Io prima... Perché non si fidano, può essere un matrimonio finto per avere la cittadinanza. Ce ne sono stati moltissimi in passato e quindi adesso non si fidano più, perché il sistema di immigrazione americano è decisamente stringente. Per cui quello tu pensa che in Italia si sposano donne dell'est, vecchietti di 150 anni. Certo, la badante. Cioè, ma lì non si può fare, è impossibile. Lì adesso è molto difficile. Molto difficile perché comunque anche entrare negli Stati Uniti, oppure per esempio partorire negli Stati Uniti, visto che lì c'è la regola tale per cui se si nasce negli Stati Uniti si è automaticamente americani, quindi è ius sanguini e non ius solis. Sostanzialmente non si può entrare se si è visibilmente incinta e non si hanno i documenti. Cosa, se ha paura, fa un figlio lì per farlo diventare americano? È successo, questo è successo, facendo degli escamotage incredibili. Però insomma, comunque donne molto grasse, perché sennò non so, che nascondono il figlio. Esattamente. E poi lo partoriscono e diventa americano. Io in realtà ho una conoscente che lo ha fatto perché aveva la possibilità comunque di appoggiarsi a una famiglia americana e quindi è riuscito a mandare la moglie prima che fosse visibile ed è riuscito a fare questo. Anche se poi ci sono molti altri problemi da risolvere, perché come sapete il sistema americano di sanità pubblica non esiste e di conseguenza anche soltanto un parto o una semplice rottura di un braccio o una visita all'ospedale qualunque può costare migliaia di dollari se non si ha un'assicurazione privata. Invece, diciamo, la residenza a Dubai come la residenza a Dubai, il sistema di immigrazione è completamente differente. Se ti dicevo, a Dubai sei solamente cosa, sei un ospite? A Dubai non si potrà mai diventare cittadini. Il 20% sostanzialmente della popolazione attuale di Dubai, anzi più che di Dubai parliamo degli Emirati Arabi Uniti perché sono 7 Emirati, è composto da locali che tendono a sposarsi tra famiglie, perché c'è ancora una vecchia legge tribale tale per cui comunque si sposano tra, anzi addirittura tra consanguini. Ci sono delle malattie genetiche che vengono tramandate di generazione in generazione proprio perché non c'è mescolanza di persone. Si sposano tra cugini, tra consanguini? Assolutamente sì, tendono a sposarsi. Beh, tra come sai, nelle famiglie arcaiche anche in Italia in un certo senso è per tenere, per comunque, non disperdere il patrimonio, per non disperdere il patrimonio, per non disperdere la ricchezza culturale. Però il restante 80% è formato da espatriati che vengono da tutte le parti del mondo. Il sistema di immigrazione è piramidale, si può entrare soltanto se si ha uno sponsor, quindi un datore di lavoro che sponsorizza ogni 3 anni, e peraltro comunque bisogna passare dei test medici, perché se si fallisce al test medico comunque non si è ammessi. E quali sono le malattie per cui non può rimanere? Tubercolosi, AIDS, malattie contagiose di vario genere. Si fa un test del sangue, poi si fanno un'altra serie di test, e questo viene fatto ogni 3 anni, perché il visto viene rinnovato ogni 3 anni, quindi in realtà non si ha mai la certezza di poter rimanere costantemente. Poi ovviamente, ma perlomeno se rimani vuol dire che stai bene. Se rimani si sta bene normalmente. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno VA non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Ma poi oltretutto le cose sono molto cambiate. Io sono andata lì la prima volta 10 anni fa e ho visto quindi un'evoluzione incredibile. Diciamo che sociologicamente gli Emirati Arabi Uniti sono più avanzati almeno di 10 anni rispetto ai paesi che li circondano, o forse se prendiamo... Nella gestione proprio, diciamo, della società, non del welfare, di queste cose che non nella esistono. Nella gestione della società, in fondo sono uno dei rari esempi, se non l'unico, in cui diverse culture, in cui vige comunque una Sharia law, e in cui diverse culture riescono a convivere pacificamente. C'è libertà di culto, esistono chiese cattoliche, chiese protestanti. Però se tu per il Ramadan vai in giro con un panino in mano, non credo che ti dicono bello, bello, che bravo. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Cosa succederebbe nel caso? Ecco, nel caso si può inizialmente essere redarguiti da qualcuno della sicurezza, e poi dopo, se si continua e si decide di continuare, quindi si infrange la legge, e in quel caso si può addirittura essere arrestati, così come il livello di alcol... Ma conosci amiche tue che sono state arrestate per questo? No, però ho letto delle notizie tali per cui qualcuno è sostanzialmente arrogante, ha sfidato quella che è stato un ammonimento. Però a parte il periodo del Ramadan, in cui ci sono delle regole più stringenti, come il fatto di vestirsi magari in maniera più modesta, normalmente... Tu come vesti negli Emirati? Esattamente come vesti negli Stati Uniti? O? Assolutamente come vesto negli Stati Uniti. Diciamo che anzi negli Stati Uniti ci si veste in maniera molto più sportiva, molto più informale, mentre negli Emirati Arabi la femminilità è molto tenuta da conto. Le donne locali e le donne comunque che hanno le donne arabe in genere, non parliamo poi delle libanesi che hanno una cultura molto mischiata a quella europea, parlano francese e arabo e sono moltissime negli Emirati, tengono la femminilità in una maniera che noi forse abbiamo dimenticato. È vero questa leggenda che gira che sotto gli abiti, diciamo, che le coprono, hanno biancheria stravolgente? Sì, infatti ci sono anche dei negozi tali per cui se uno cerca un pigiama qualunque di cotone non lo trova, perché ci sono delle mise assolutamente molto sexy. E poi al di sotto dell'abaya, che è il vestito nero che si vede con il velo, vanno tutte coperte lì? Lì si devono essere coperte con l'abaya. Anche il viso? Il viso dipende da loro stesse, perché in realtà hanno molta più capacità di scelta di quello che noi pensiamo, e poi da quelle che sono le regole che sono suggerite dai maschi della famiglia, prima il padre e poi il marito. Per esempio ad Abu Dhabi è molto più facile trovare delle donne che sono completamente velate, anche se non parliamo di burka, assolutamente non c'entra nulla con quello che troviamo in altri paesi, Afghanistan, Pakistan eccetera. Invece a Dubai è quasi impossibile trovare una donna completamente velata, non solo l'hijab. Beh, adesso ti alleggerisco dalla mia depressione, perché i miei viaggi sono molto brevi, molto tristi e anche molto da povero nel treno. I tuoi sono intercontinentali, i tuoi vanno dagli Emirati Arabi agli Stati Uniti, e i miei si fermano alla prossima stazione. Ciao. Ciao. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Cambio treno e cambio completamente scenario. cambiano viaggiatori, cambia lo status delle persone che mi circondano. E improvvisamente incappo in una mia vecchia conoscenza. La ragazza con la chitarra, la ragazza canterina, la ragazza inquieta, la ragazza che non si capacitava di non essere amata sufficientemente, la trovo nuovamente sul treno con la sua chitarra in mano e non resisto. Lo conosci un film che si chiama The Holiday? No, mica posso conoscere tutti i film del mondo, no. Meno male. Allora, questo è un film che mi è venuto in mente l'altro giorno perché uno dei personaggi in questo film dice, sai, ci sono tanti bei incontri nella vita. Ma chi lo dice questo? Non lo conosco, non l'ho mai visto. Un personaggio, un personaggio. Perché è un uomo, film, una donna, un animale da cortile. È un sì, un antico, un vecchio sceneggiatore, diciamo. Questo personaggio fa la sarebbe parte il tuo di un sogno, diventare una vecchia sceneggiatrice. Diventare sceneggiatrice vecchia non è un sogno, è una realtà. Non è quello, ci diventi per forza. Non ci diventi per no, forza. No, perché ogni tanto ti incontro in treno con questa chitarra così, con quest'area d'artista che nessuno riconosce che nel nessuno suo ruolo. Nessuno riconosce, esatto. Comunque, ma io ecco, sono l'unico appunto, che ti ferma, sentivo... sono l'unico che ti ferma in treno e ti chiede di parlare. Forse uno dei pochi da cui mi faccio fermare. Perché gli altri che fanno? Ti saltano addosso? Gli altri no, guardano, a volte uno poi vuole attaccare il bottone, però non è che sei sempre... Ti danno 10 centesimi. Ben disposta. Ti vedono con la chitarra, pensano che sei... Pensano, ecco, vabbè, diamogli una monetina così magari smette e cambia vagone. Invece vabbè, no. Torna al personaggio. Comunque, il punto non era questo, era che mi era venuto in mente questo film perché l'altra sera mi sentivo abbastanza frustrata e volevo scappare, andare che non so successo? Dove, quando. Ma perché? Che te era successo? Ero tornata da un viaggio e quando si torna da un viaggio sembra tutto differente se quel viaggio è stato veramente un viaggio. Sono tornata a casa e... questa è letteratura, in realtà che te era successo? Ma era successo questo. Le solite storie di uomini che non ti capiscono. No, assolutamente. Non sanno che ti basta, amano. Basta con questi uomini. Sempre la solita storia. Sono entrata dentro casa e... No, ma spiegami prima, non voglio sapere l'antefatto. L'antefatto? No, per cosa era semplicemente frustrata? Un viaggio. Ero frustrata perché sono tornata dentro casa e mi sono accorta sì, di ma cos'era l'aria. Successo prima? Fatto un viaggio, poi sono tornata a casa. Ma perché è frustrata? Ah, è perché ero frustrata perché mi sono resa conto che ero tornata a casa. Sì, ma prima la frustrazione del viaggio, qual è stata? No, il viaggio è andato benissimo. Cosa il problema perché è stato tornare a perché casa. Perché bene? Che è successo? Perché ho cambiato aria, perché... Vabbè, non mica cambiare, mica sei una novantenne che va a cambiare aria. A volte però mi ci sento, perciò ho bisogno di che cambiare. Che è successo in questo viaggio per cui tu sei tornata a casa come quelle che tornano dalle crociere? Sono tornata a casa dopo una vacanza, semplice vacanza... Da sola? No. Con un'amica. Un'amica? Che non vedo mai, lei vive a Parigi, io vivo a Roma. Sai, perciò, botta di vita. Una botta di vita pazzesca, ci siamo incontrate tipo a metà strada, abbiamo sì. fatto un viaggio. E che dove sei stata? E siamo stati in giro. Sono tornata a casa e mi sentivo soffocare. Voglio raccontarti un'altra cosa. Doveva basta aprire la finestra. Eh? È stata chiusa una settimana, la casa era soffocata. No, c'era troppe persone, ero abituata a stare da sola e quando si torna a casa a 26 anni ti senti un attimo così. C'è la mamma papà, fratello. Beh, tu ancora vivi con i genitori. Lo so, è una scelta che devi fare. È una scelta che devo fare. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Però è comodo, c'era la minestrina pronta. No, perché la cotoletta. No, adesso mi uccideranno, ma io mi compro tutto da sola. Vado al supermercato, tutti i miei soldi li spendo al supermercato. Ma il frigo poi chi lo pulisce, tua madre? Il frigo. Il forno chi lo pulisce, tua madre? Il forno io, se cucino lo pulisce, vabbè. Le diciamo pentole che... chi le lava, tua madre? Mamma, il lettino che te lo rifà, tua madre? No, assolutamente le no. Le lenzoline che te le lava, tua madre? No, assolutamente no. Ho tutto in camera mia. Le mutandine che te le candeggia, tua madre? Tutto io faccio, tutto io. Faccio tutto io a casa. Era la verda sola a questo punto. Esatto. Questa è una bella affermazione che ha bisogno anche di un po' di azione. Comunque, disperata, mia madre voleva i supplì rigorosamente senza carne. E ovviamente guardano me come per dire, vorrei questa cosa, chi è che va? Io dico, vabbè, vado io, piuttosto di uscire 10 minuti, scendo, arrivo a piedi. Ma grande fantasia culinare a casa tua. La mamma dice alla figlia, va a comprare il supplì. No, non è che dice vai a comprare, dice mi piacerebbe avere questa cosa. Beh, e poi? Sono entrata, sono uscita da casa con tutti i nomi di altre città nella testa, sì. Aeroporti, treni da prendere. Al sono friggitore. Entrata dentro e lì mi è venuto in mente questo film in cui si parlava di un bel incontro avvenuto in pigiama tra un uomo e una donna che vanno in un reparto. E l'uomo chiede in ospedale? No, in un reparto dove vendono pigiami, insomma, cose per la casa. E l'uomo dice: ma i pigiami che le vendono misti, quelli degli uomini nel reparto degli uomini, quelli delle donne nel reparto mutande reggiseni. Sarà stato un reparto dove stavano tutti insieme appassionatamente. Solo nei negozi dei cinesi vendono tutto assieme. No, uno di quelli grandi americani dove magari mischiano un po' tutto. E la donna chiede: mi servirebbe il pezzo di sotto? L'uomo: a me servirebbe solo il pezzo di sopra. Mi è venuto in mente questa cosa perché io ero in pigiama, me ne sono resa conto solo in quel momento. Ma mica possono smezzare lo stesso pigiama, l'uomo sarà più grande e la donna più piccola. Però si sono incontrati, poi sono affari loro. Magari neanche l'hanno utilizzato. Vabbè, sono pigiama, le cazzate da film. Hanno preso metà pigiama per uno. Il punto era che uno aveva bisogno di una cosa e l'altro di un'altra, erano complementari. No, una sceneggiatura totalmente ipocrita. L'uomo naturalmente è il pezzo sotto deve coprirsi il pisello, la donna naturalmente è il pezzo di sopra che è lungo e gli fa da vestito, così è salvato il pudore. Il contrario sarebbe stato interessante. Forse era il contrario, ho sbagliato io. No, è così sicuramente. Un film Melenzo che piace alle ragazze. E allora, conclusione? Vabbè. Stavo in pigiama in questa pizzeria. Ho detto: porca miseria, sono in pigiama. Non me ne ero resa conto. Ma tu sei uscita a casa? Sì. Non era uno di quei pigiami che tu te li metti al buio per non vederli perché. Ma il pezzo di sopra o il pezzo di sotto? Tutto, era un pigiama con un maglioncino. E mi sentivo abbastanza irritata e arrabbiata. E non sopportavo nessuno perché pensavo che anche gli altri si fossero accorti di questa mia grande. E perciò ero molto chiusa in quel momento. E vicino a me c'era una signora e un signore, e oltre al ragazzo che era molto solare. Ma dunque, dai, che ho fretta. Fretta, anch'io ho fretta. No, devo scendere. Io devo suonare. E questa signora vicino a me ha detto: ma mettimene in una bustina il supplì, perché io sto in treno. E lì è bastato un attimo che mi è venuto da rispondere: io sto in pigiama. Al che è cambiata tutta l'atmosfera in quel momento. Come se una luce fosse entrata dentro quella pizzeria. Io mi fossi aperta a quello che mi succedeva attorno, piuttosto a pensare al. Tu devi dire alla mamma di chiudere l'armadietto con il nocino e con i super alcolici quando ti manda a troppo prendere. Tardi, è troppo Senti, tardi. Senti, io devo scendere. Cosa fai? Vuoi suonare adesso? Mi fai suonare? Suona. Suono qualcosa. Per la delizia di chi rimane, perché io scendo. Ciao, cara. Va bene, scendi ciao. Come al solito. Ciao. Ciao. Ci apparteniamo poi, dopo che succede? Vorrei scavarti l'anima, raccontarti che si vede. Non voglio dalla vita una storia qualunque. Ho fatto un paio di progetti, chissà se bastano. Comunque ti chiamerò dal traffico, in coda in tangenziale, per ingannare il tempo come se si potesse fare. Questa città più grande, per chi non sa sognare, a mezzanotte il bar in piazza sembra un'astronave, è questo che vuoi? Cambio velocemente treno, salgo sul primo convoglio in partenza, non so nemmeno dove è diretto. E ho deciso di cambiare genere, finalmente, perché tutti mi stanno accusando, velatamente, quelli che scrivono, quelli che telefonano, quelli che mi mandano messaggi via mail, che quasi quasi userei lo stratagemma del viaggiare in treno per fare il provolone con le donne. Nulla è più lontano da me quando una donna m'aspetta alla fine del mio viaggio e tremo pensando al momento in cui il mio viaggio finirà. E quindi aggredisco il ragazzo timido che è accanto a me. Ha una bella barbetta, ben curata, è vestito in maniera molto semplice, ha in mano un laptop, ha delle riviste che indicano immediatamente quella che è la sua massima aspirazione. Vorrebbe fare il giornalista, vorrebbe essere un grande inviato, vorrebbe lavorare per un grande giornale. Al momento si accontenta di gestire il suo blog e mi racconta la sua vita, che in fondo è il pezzo più importante che potrà fare oggi. Mi ricordo un vecchio telefilm che adesso stanno rimandando in dei canali secondari, Tre cuori in affitto. Tu non l'hai visto, sei troppo giovane. Sono troppo giovane. Era la storia, diciamo, di due ragazze, un ragazzo che devono dividere un appartamento in affitto. E naturalmente, diciamo, i proprietari dell'appartamento, per affittarlo a delle ragazze o ragazzo, dovevano bersi la fandonia che lui fosse gay, perché sennò naturalmente non avrebbero dato la possibilità di convivere promiscuamente con un ragazzo e due ragazze. Non c'erano storie tra loro, erano amici, però dovevano dividersi l'appartamento e stavano in tre. Quindi lui si fingeva gay e tutto basato su questi doppi sensi così. Te praticamente vivi in una situazione inversa di tre cuori in affitto. Sì, Ora che me lo dici mi fai pensare al fatto che non è la prima volta. Ora a Roma mi trovo a vivere con due ragazze, ma già tempo fa a Milano ho vissuto con due ragazze e in Francia anche. Ero coinquilino di... sempre di due ragazze. Ma è la situazione ideale forse. Sì, non ci avevo mai pensato. Tu sempre sei stato il terzo di due ragazze. Ma non c'erano mai rapporti se non diciamo di convivenza quotidiana? Non eravate sentimentalmente legati? No, io no. E non so se le ragazze mi nascondessero qualcosa. Ah, potevano tra loro c'era un rapporto. Può darsi anche di sì. Vabbè, che c'è di strano così? Ma com'è la convivenza con due donne adesso, onestamente? Non c'è il problema, diciamo, non lo so, della propria privatezza, non so, la fila al bagno con due donne che non sono fidanzate, amiche, mogli, com'è difficile, no? No, questo no. È un po' più difficile tornare, uno vorrebbe un po' di privatezza nel bagno e trova... Fra le donne la sera, di tutto. Sì, sì, ma anche oggetti di vita quotidiana che appartengono al mondo femminile. Caro mio, quando ti sposerai troverai di tutto in bagno, però almeno tua moglie fa parte del gioco. Diciamo che è una palestra di vita, ti rende... Solo è raddoppiato per due. Sì. Vabbè, ciao, io scendo. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Mi sta bene. Ho voluto fare il galante. Ho aiutato la signora anziana a scendere la sua valigia dalla cappelliera. Era pesantissima. Aveva dentro un cadavere o piombo fuso, qualcosa del genere. E adesso il colpo della strega. Ma io ho una schiena molto debole e lo devo alla mia appassionata volontà di stupire. Per un periodo della mia vita ho sollevato donne, sollevavo donne sulla mia schiena, sollevavo in un pomeriggio anche 20-30 donne, come una sorta di spettacolo di piazza, le sollevavo soltanto per il piacere di prendermi sulle spalle il loro peso, sollevavo donne sconosciute, le sollevavo e ero felice. Quando una donna mi incuriosisce, mi basta immaginare di poterla portare sulle spalle in cima a un albero. Penso sia l'azione meno probabile in cui coinvolgere una persona. Spesso lo dico per capire di che pasta sia fatta una donna, e mai qualcuna che si entusiasmi e capisca l'importanza cosmica della mia richiesta. Per questa ragione sono convinto che se qualcuna mi dicesse sì, prendimi in braccio, vengo con te in cima all'albero, varrà veramente la pena di affrontare quell'impresa. Devo anche dire che finora sono ben contento non me l'abbiano chiesto e nell'attesa mi sono comunque allenato a sollevare donne di tutti i tipi e misure. Mi piace sollevare le donne, non tutte in assoluto, non sempre, non necessariamente quelle che sono amiche, familiari, congiunte. Dirò che nella maggior parte dei casi sollevare chi già conosco rappresenta un'eccezione. Mi sarebbe piaciuto sollevare tante persone che invece ho troppo appesantito. Chissà perché non l'ho fatto. Me ne pento davvero tanto. Sollevo piuttosto chi ho visto per la prima volta da pochi minuti, che nella maggior parte dei casi non rivedrò mai più. Non attribuisco al gesto alcuna valenza erotica, nessun desiderio di promiscuità o contatto fisico. Il sollevamento della femmina potrei assimilarlo ad una pratica ascetica. Si tratta di un'improvvisa e dirompente e gioiosa uscita dal mondo. Mi spiego meglio. Il primo effetto concreto e subito dopo l'atto del sollevamento, prendere quella persona sulla spalla, aggiungendo il suo peso al mio, annulla ogni gravità nell'istante in cui la rimetto a terra. Mentre il sollevamento avviene, invece, avverto una sensazione di scoppiettante allegrezza. Non saprei dire se l'atto mi ispira, perché metaforicamente mi piacerebbe sollevare una donna dalle afflizioni, dalle tristezze, dal grigiore, prenderla su una spalla è la maniera più efficace per manifestare questa mia aspirazione. Forse mi piace pensare che per quella persona sono una spalla potente, mi piace vedere che sono forte, mi piace sentirmi un centauro che rapisce una naiade. Per tutto il periodo che io sollevai donne, che durò circa un annetto, feci di tutto naturalmente perché faceva parte dell'operazione, per pubblicizzare il fatto che ero disponibile a sollevare donne. Una volta una mi scrisse mentre ero appunto in treno, mi disse vorrei essere sollevata. Le detti appuntamento in quel minuto in cui il Frecciarossa si ferma da Roma a Milano alla stazione di Bologna, un minuto esatto. Lei mi aspettava all'altezza del binario che le avevo detto, scesi, la sollevai, mi fece fare una foto e la pubblicai subito. Mai amai una donna in maniera così profonda e mai mi sentii così preso, posseduto e mai vidi una donna così incredibilmente grata per il fatto che io esistessi. L'avevo vista, sollevata e posseduta, tutto nell'arco di un minuto, in una stazione. Il mio primo sollevamento consapevolmente filosofico è stato anche il più irresistibile ed audace. Ho conosciuto una fantastica donna cannone in un museo pieno di sante reliquie, dove era venuta per intervistarmi sulle modificazioni della carne, tema a cui mi sono un tempo molto appassionato. Eravamo in un locale attiguo a una chiesa e il contesto mi aveva ispirato un sollevamento che trovai poeticamente eccelso. Quando le manifestai la mia intenzione e le annunciai che stavo per sollevarla, mi rise in faccia perché pensava che scherzassi, vedendomi in realtà come ometto intimidito davanti a lei, fantastica gigantessa dal regno delle favole. E invece la presi su, come fosse una piuma. Come Pollicino avrebbe potuto prendere in braccio per gratitudine l'orchessa che per salvar lui la vita arrivò ad ingannare il consorte famelico. La sollevai senza sforzo e senza nemmeno accorgermi dei 90 chili che lei mi dichiarò, con sublime civetteria, mentre già svolazzava altissima. Fu la più intensa delle mie sollevazioni e quando la posai mi parve per un attimo di poter volare. Il sollevamento di questa donna, che solo dopo seppi in realtà pesare 120 chili, ma mi mentì per civetteria, ha rappresentato il punto di svolta di quella che era solo una sporadica boutade, e per questo gliene sarò sempre grato. Passai qualche giorno a letto per la schiena dolorante, ma elaborai tutta la summa teorica del sublime sollievo della sollevazione di donne. Sono grato a tutte le persone che mi seguono da lontano e mi seguono da vicino, mandandomi segnalazioni dei luoghi in cui potrebbero incontrarmi o aspettarmi. Poi ci sono le persone a cui sono ugualmente grato, che mi mandano i loro messaggi. Alcuni li scrivono e alcune mi mandano messaggi vocali, come questa donna che mi descrive la sua folle passione per l'uomo bestia. Il mio nome è Giulia, ho compiuto da poco 30 anni e sono rimasta estremamente colpita, affascinata, e ho conosciuto un uomo veramente brutto, ma un ex bello che è diventato mostruoso. Si è completamente lasciato prendere dal nichilismo, ha cominciato a mostrare dei forti gonfiori alla pancia, i suoi capelli erano e sono perennemente sporchi, ha i denti nerissimi dal fumo perché fuma tantissimo, è una specie di Fabrizio De André degenerato, è francamente irresistibile, è veramente l'antimaschio moderno. Quest'uomo si presenta normalmente con abiti che lava, credo sì o no, una volta al mese, e porta spesso jeans molto consunti, scarpe da ginnastica o Clarks molto consunte, addirittura mette cappotti usati, sdrucciti, ha un modo di parlare che è quasi un gruffolare, nel senso che sembra l'uomo lupo, ecco, che quando vede la luna piena si trasforma e inizia ad acquistare un tono di voce molto profondo ed aggressivo, una cosa quasi fumettistica, diciamo. Una donna cerca sempre di sentirsi unica e di sentirsi amata, anche attraverso il sesso, naturalmente. Moltissimi uomini sono distratti, annoiati, passivi. Non posso negare invece che quest'uomo nelle sue manifestazioni sessuali sia anche incredibilmente coinvolgente e quasi oscuro. Ho sempre sospettato che ci fosse una chiave nascosta e scurrile anche nelle favole che mi raccontavano da bambino, per cui la bella si innamora della bestia perché la bestia ha un animo gentile nella sua estrema bruttezza, no? La bestia sotto quella giubba e quella coltre pelosa nascondeva qualcosa che lo rendeva molto attraente, e la mia ascoltatrice me lo conferma. Essendomi abituata per un certo periodo a vedere un uomo che si alzava al mattino, beveva un cc di caffè e mezzo litro di whisky, qualsiasi altro uomo mi sembra strano, in colore, perché io credo che la società occidentale abbia molto appiattito nelle persone le emozioni, nel senso che le persone sono alla ricerca continua di emozioni, però non sanno distaccarsi da certi modelli che sono sia culturali che televisivi. C'è sicuramente qualcosa di adolescenziale in questi sentimenti di attrazione nei confronti di uomini di questo genere, però va anche detta una cosa, che le manifestazioni adolescenziali sono quelle che tengono vive le persone. È molto semplice sposare, mettere su famiglia, il bravo ragazzo, il lavoratore onesto, eccetera. Io ho moltissime amiche che l'hanno fatto e veramente dico che forse sono delle poverette, perché sono tutte alla ricerca di un'emozione diversa. La mia ascoltatrice fa parte di quella schiera eletta di donne che amano l'ardimento, che vogliono osare, che non si fermano di fronte alla facile soluzione di ogni sogno adolescenziale: una brava persona, una persona che ti ami, che stia vicino per tutta la vita. Ama il rischio, e se il rischio corrisponde con lo sfidare la torre invincibile dell'uomo bestiale, salire fino alla cima e poi buttarsi giù col timore di schiantarsi o con la vertigine di aver toccato qualcosa che altri non toccheranno mai, beh, questo fa parte della grande generosità del genere femminile, che insomma ci prende sempre, prende su tutto, qualunque cosa noi siamo, perché le donne in fondo, sì, è vero, sono molto di bocca buona. Treno va. Oddio, so già quanto pagherò caro l'aver detto che le donne sono di bocca buona, ma era un modo di dire, per confermare il fatto che in fondo riescono a passare sopra a tanti nostri limiti, a tanti nostri difetti, a tante nostre defandezze, e noi uomini invece al contrario siamo sempre schizzinosi, almeno all'apparenza, almeno a parole, almeno quando ci vantiamo con gli amici. Mi ha scritto un'altra ascoltatrice e mi ha mandato una lettera che ho trasformato in audiomessaggio. Ho fatto leggere. È una storia che parte e nasce molto triste. Nasce con un uomo che ha appena seppellito la sua donna e accanto a un'amica, in questo momento, diciamo, abbastanza doloroso. Caro Gianluca, mi è accaduto di veder piangere un uomo e non pensavo che mi facesse tanta impressione. Qualche settimana fa ho aiutato un caro amico a sistemare abiti e ricordi di sua moglie, morta in poche settimane per una malattia fulminante a soli 50 anni. Io conoscevo lui da tanto tempo e alla fine mi aveva fatto conoscere anche la moglie, quindi puoi capire come il momento non fosse certo facile. Prova a immaginare quanti ricordi, quante sensazioni sono impressi in vestiti e oggetti appartenuti alla persona amata. Ma sorprendentemente, lui mi era sembrato piuttosto rassegnato, anzi quasi indifferente al fatto di aver appena seppellito una donna con cui aveva passato grande parte della vita. Pensai che ognuno ha le sue personali maniere per elaborare i propri lutti. Anzi, ero quasi contenta che per lui la vita potesse continuare senza traumi e scossoni emotivi, almeno all'apparenza capaci di sconvolgergli future possibilità di ricostruirsi una relazione con un'altra donna. Devo dire, con assoluta sincerità, che nonostante l'affetto e il ricordo della mia amica defunta, io non mi sarei certo sottratta se lui mi avesse cominciato a considerare come una possibile compagna. Lui mi aveva sempre attratta, e se non mi ero mai fatta avanti, era solo perché non volevo infilarmi in una cosa complicata. È certo che è un argomento che non si ascolta volentieri, del quale non si parla nemmeno volentieri, ma qualora ci trovasse ad incorrere in questa triste circostanza di dover assaporare lentamente, con nostalgia e con mestizia, il ricordo di una persona scomparsa attraverso gli oggetti ancora contaminati dalla sua presenza, è bello averci vicino una persona amica, non farlo da soli, è dare corpo a ogni oggetto, legare ogni oggetto il ricordo di un momento passato, bello, brutto, banale o quotidiano che esso sia. Farlo poi, come nel caso dell'amica che mi ha scritto, con una persona che ha sempre cullato e coltivato in sé un sogno d'amore, un sogno probabilmente bloccato, frustrato, cancellato, messo nel ripostiglio dalla necessità di non interrompere l'amicizia con la sua migliore amica, di non andarsi a infilare in una unione già consolidata, di non mettersi in situazioni complicate. E in questo caso è vicino una persona che sì, ti aiuta, ti assiste, ti sta accanto, ti è amica, ma sottilmente, e probabilmente lui non se n'era mai accorto e forse mai se ne accorgerà, ambiva ben altro. E soltanto la morte, che in questo caso è stata crudele, sì, ha forse rappresentato il riaprirsi improvviso di una nuova speranza per la donna. Nulla di tutto questo è comunque andato in porto, perché la situazione è precipitata quando Valerio, il mio amico, durante la triste rassegna delle cose personali della moglie morta, che io ordinavo e mettevo in scatole perché trovavo giusto che se ne liberasse, ha aperto un cassetto e ha scoperto improvvisamente tutto il mondo nascosto di sua moglie, che nemmeno io, che la conoscevo bene, avevo mai sospettato come possibile. Un cellulare, lettere d'amore, degli scontrini, un anello. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ed ecco improvviso il colpo di scena. Il modello di fedeltà coniugale, l'immagine incontaminata della moglie fedele, la donna che l'uomo si è portato accanto per tutta la vita, che adesso rimpiange cercando tracce della sua pallida presenza, di anima che si allontana lentamente dal mondo dei vivi, improvvisamente diventa la peggiore delle donne. Basta un cellulare, qualche oggettino, qualche traccia comunque di una vita parallela. Ebbene, cosa ha scoperto quest'uomo? Che la moglie aveva una vita parallela. Qual è il problema? Tutti abbiamo vite parallele. Qualcuno le vive, qualcuno invece accetta il fatto che è meglio forse continuare a desirarle, a sognarle, a carezzarle, farsi dei film, farsi delle grandi immaginarie storie senza mai poi provare in realtà quanto le storie possono avere una durezza, un riscontro quotidiano. A questa donna è andata bene, è morta prima di essere scoperta, è morta prima di arrivare a un redde rationem, è morta prima di dover dare spiegazioni. Adesso lei è lontana e il problema è tutto di lui. Tanto probabilmente si sarebbe consolato dalla scomparsa della donna, tanto poco diverrà inconsolabile e cornuto per tutto il resto della sua vita. Lui ha cominciato a leggere. Io ero senza parole e tuttora lo sono. Che dire di una donna che lui aveva amato tantissimo e da cui pensava essere corrisposto, che aveva vissuto per anni una vita parallela con un altro uomo che pareva altrettanto intensa? Da quel momento ho visto esplodere nel mio amico un dolore così violento e irrefrenabile che ho faticato per calmarlo. Da quel momento non mi ha voluto più vedere. Credo che sia diventato rancorosamente misogino. Lui, così intelligente e sensibile proprio rispetto all'universo femminile, cosa che me lo aveva sempre fatto apprezzare molto. Forse è per questo che si sente doppiamente amareggiato. Mi hanno detto che si è messo a telefonare a tutte le amiche della moglie per sapere di più su questo amante segreto e per ricostruire questa storia di tradimento scoperta postuma. Ma a che serve? Che cosa gli potrei mai dire per fargli tornare un po' di sano distacco e soprattutto di realismo verso la sua compagna e anche farlo riavvicinare a me, che non ho nulla a che fare con questo tradimento così insopportabile? Lidia. Ahimè, Mi dispiace anche questa volta di non poter dare una risposta che dia sollievo, piacere o soddisfazione alla persona che mi ha posto la domanda. Io penso che la nostra amica non abbia nessuna speranza. Oramai quest'uomo inconsolabile che deve infangare, sporcare, distruggere, impugnare come oggetto di vindice vilipendio la propria virilità su tutte le amiche della moglie, se le passerà e ripasserà l'una dopo l'altra, ma l'unica che rimarrà fuori dal circolo delle elette o delle contaminate sarà proprio l'amica che l'ha aiutata a ricomporre il ricordo della moglie. Ahimè, ormai si è posta in una sorta di circolo intoccabile. Lei è la vestale che lui non potrà vedere che come ultimo pallido ricordo di quello che era l'immagine della moglie prima della scoperta di quel cellulare, di quel blocco d'appunti, di quegli oggettini che lo renderanno inquieto per tutto il resto della sua vita. Sister knows the way I feel when practicing. I take a spill, she never laughs when I am hurt. She shows me how to roll in the dark. Cries of terror and delight as they look up into the light. Sighs of wonder and suspense when I jump up. We never know where he will go. He sweeps the floor and then he yells when I step on the peanut shells.